Ciao, sono la sigla del cammino di Gigi D'Agostino. O già già? Buongiorno a tutti, questo è Il Cammino e io sono Gigi D'Agostino e quindi il cammino è il mio, però è anche il vostro. Oggi cammineremo ovunque. Percorreremo sentieri molto cupi e ritmati e altri molto più melodici, ma altrettanto ritmati. Ma chi lo ha detto che se un sabato pomeriggio faccio il sondaggino, il sabato dopo devo farlo di nuovo? Eh? Non abbiate paura. Chi lo ha detto che ogni sabato bisogna per forza fare il sondaggino? Ma se io oggi volessi... Perché magari ho voglia di ballare con violenza, lasciarmi andare all'immaginazione che mi provoca la danza, lo stato di trance. Il perdermi nel passo. Il cammino di Gigi D'Agostino. Ogni giorno ti aspetta qui alle 18. Non abbiamo tempo da perdere. Che se uno ti tende la mano tu gliela devi per forza stringere, e se poi quello lì ce l'ha sudata, che schifo. Dovete smettere di dare la mano sudata. Salutate con un sorriso. È più sano. chi lo ha detto che se ricevo un SMS devo rispondere per forza? E comunque se qualcuno lo ha detto, che risponda lui. Detto che questo è il cammino di... Ah, l'ho detto io. Allora è vero. Già. Ma chi lo ha detto che in discoteca... Non mi ricordo cosa dovevo dire. Venire in discoteca e non hai l'auto, sei a piedi e non vuoi prendere il treno, non c'hai voglia di stare da solo e vuoi stare insieme ad altri che e vuoi condividere tutte le tue robe musicali, i tuoi viaggi, le tue storie, vuoi parlare, insomma, operazione viaggione. Stiamo organizzando i pullman da tutta Italia per la stagione estiva, poi l'operazione proseguirà, però intanto ci stiamo concentrando su tutte le date estive alla discoteca Altro Mondo a Rimini. La prima data che stiamo organizzando è il 24 giugno, inaugurazione estiva alla discoteca Altro Mondo Rimini. Se volete delle informazioni un po' più precise, potete andare sul mio sito www.gigidagostino.com oppure www.gigidag.com. Cliccate in ambedue i casi a finite lì. E entrate nel forum e c'è un topic dedicato a questa operazione. Potete rivolgervi ai vari responsabili di zona e chiederete le vostre informazioni del caso. I pullman partiranno da diverse località italiane, vi porteranno alla discoteca, ripartiranno dalla discoteca subito dopo la chiusura oppure la sera per chi si volesse fermare al mare. Per piacere, non giochiamo, non ho nessuna voglia di scherzare. Non c'è tempo da perdere. Dai, su le mani. Basta con questi disc jockey che ci propongono solo le loro turbe psichiche e non ci fanno divertire. Ehi, se vuoi sentirti quella roba lì che ti fa brutto nel cervello, te l'ascolti a casa tua, no? Oh, noi siamo venuti qui per divertirci. Abbiamo pagato. Basta con questi vocalist che ci impongono le cose. Ehi! E questi door selector all'ingresso dei locali che scelgono le persone. Ma come si fa a scegliere una persona? Che ne sai di come sta dentro? Di che roba bella è o di che roba brutta è? Ma come fai a saperlo te? Come fai a dire te sì e te no? Te levati. Il cammino di Gigi D'Agostino spesso si trasforma. Non c'è un programma ben preciso, perché questo non è un programma e quindi non si programma. Perché questo non è un programma. Le vostre dediche continuano ad arrivare, sono tantissime. Io durante la notte le leggo e finché non le imparo a memoria non le sentirete. E no, perché non voglio sbagliare, quando leggo voglio essere preciso. E quindi me le sto studiando a memoria, appena le saprò a memoria tutte quante le sentirete. Eh? D'Agostino. Ogni giorno ti aspetta qui alle 18. Non abbiamo tempo da perdere.

scorso, fino all'ultimo tiro. Detto che quando lei o lui ti dice ti amo, bisogna per forza rispondere. Chi lo ha detto? Se in quel momento lui o lei ti dice ti amo, è perché lo sente. Non vuole una risposta, non vuole sentirsi dire grazie oppure anch'io. Perché se lo fa per quel motivo, perché se lo fa per quel motivo, allora non ti ama. Ogni giorno, ore 18. Frequenza, benevolenza, M2O. Ogni giorno, alle 18. Il cammino di Gigi D'Agostino. Vorrei fare una canzone da suonare con la chitarra per le strade e le persone. Vorrei fare una canzone per donare a tutto il mondo un poco di immaginazione. Vorrei fare una canzone che trasmetta un ideale se le cose vanno male. Vorrei fare una canzone, anche solo per cantare, anche solo per cantare. Guitarra.